Ecco, lo sapevo. Sono chiuso in un cesso per scappare a un ispettore che ha capito che sto truffando tutti. Le mie peggiori paure sono diventate realtà. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:10 minuti, questa è Radio 24, è il 17 di marzo del 2011. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Io credo che di solito succeda quando si è piccoli, quando si hanno tra i 5 e i 15 anni. E quando, se sappiamo una cosa che non va detta, non riusciamo a fare a meno di raccontarla. Credo che nasca lì l'accusa del «Ecco, hai fatto la spia», oppure frasi tipo «Sei solo una spia». Una volta è successo, feci una spiata a mia madre dicendole che mia sorella era uscita con un ragazzo del mio paese, Leo si chiamava, che era molto più grande di lei, che poi in realtà aveva 3 o 4 anni più di lei. Però a quell'età sembrava un vecchio che andava con una bambina. Lo dissi una mattina, mentre facevamo colazione. Non c'era cattiveria in quell'uscita. C'era solo quel desiderio bruciante di dire una cosa che io sapevo e gli altri no. Uno degli sviluppi però che preferisco del fare la spia è quello che si verifica quando in un gruppo tutti sanno qualcosa, ma nessuno la dice. Di solito accade quando un amico confida una cosa importante singolarmente a tutti i suoi amici. Magari dicendo di tenersela per sé, o magari no, magari neanche. Però lo fa con quel tono di estrema confidenza che lascia supporre un «Oh, mi raccomando, non raccontarla in giro». Ecco, a quel punto tutti si sentono i depositari di quella verità. Una verità così speciale che ognuno è investito di quella responsabilità, di quel segreto. Poi, un giorno, il giorno in cui quella persona non c'è di solito, qualcuno ha il coraggio di fare un'uscita tipo «Ragazzi, ma voi lo sapete che...» E tutti lì fanno la stessa faccia, quella per cui «Ma scusa, com'è? Credevo di saperla solo io». Ecco, in quel caso fare la spia ha un aspetto meno potente del solito, però sempre di fare la spia, sempre di quello si tratta. L'altro giorno ho ricevuto una mail di un ragazzo di 13 anni, si firma. Fa la terza media. Tra le altre cose che mi scrive dice che si sente in colpa per avere detto al professore di educazione fisica che c'era odore di fumo nello spogliatoio della palestra. Quando è stato scoperto, il fumatore si è preso una nota sul registro e lui adesso è considerato la spia di tutta la scuola. È così. Tutti quanti, prima o poi, abbiamo fatto la spia. Io so che questa è una di quelle cose di cui ci si vergogna, perché non è bello ammetterlo. È una di quelle pieghe della nostra vita che preferiamo tenere nascoste e magari fingere di essercele dimenticate. Però, secondo me, di queste piccole vigliaccherie spesso si sente il bisogno di liberarsi. E se voi oggi avete voglia di farlo, io sono qui. E il numero è sempre quello, il numero verde 800240024 0024, oppure per gli sms 349-238-6666. Avete presente di cosa sto parlando, no? Di quelle volte in cui vi è proprio uscita una cosa che magari non doveva uscire perché era un segreto, oppure perché oppure invece l'avete fatto consapevolmente. Alessandra, ad esempio, mi scrive proprio uno di quei casi lì. Allora, una volta una mia amica mi confidò che si era stufata a tal punto del suo ragazzo che le faceva schifo anche se lui si avvicinava solo per baciarla. In buona fede, credendo di fare una cosa buona, l'ho preso da parte e gli ho detto che lei mi aveva riferito di avere dei dubbi nei suoi confronti e che forse avrebbero dovuto pensarci bene prima di fare il grande passo. Lui è rimasto prima interdetto, poi mi ha detto che non era possibile, che si amavano, che stavano mettendo su casa, la data di nozze addirittura era già fissata, comunque avrebbe verificato. Dopo qualche giorno me la ritrovo davanti al lavoro che mi insulta dicendomi che mi ero permessa di andare da lui, dire cose false inventate da me, che io ero gelosa del loro rapporto, che forse addirittura mi piaceva lui. Per colpa mia avevano avuto una furia di discussione e avevano poi fatto pace e tutto proseguiva con il vento in poppa. Morale, chiede Alessandra. No, morale non facciamola, lasciamola di solito a chi la fa la morale. 800240024 349-238-6666. Magari eravate piccoli, magari no. E se eravate piccoli di solito siete più scusabili, se eravate grandi non lo siete. Però se avete voglia di liberarvi di quel peso e dire sì, va bene, ho fatto la spia, una volta ho detto a sto tizio che c'era sta tizia che gli piaceva o non gli piaceva, o che aveva fatto un errore sul lavoro, volevo che fosse licenziato. 800240024 0024 è la giornata dell'unità nazionale. Uniamoci, non è l'unità nazionale oggi, no? 150 anni della Repubblica. Però è anche un po' la festa dell'unità nazionale, dell'unità d'Italia, la festa dell'unità d'Italia. E quindi liberiamoci anche di questo fardello. 349-238-6666. Ce n'era un altro di messaggio prima di raccontarvi la mia storia, perché come al solito lì andiamo. Paola, a tavola. pranzo con i miei genitori e mio fratello. Lui ha 5 anni più di me. Era appena uscito, riuscito a farsi comprare il motorino. La mia invidia è sempre stata senza limiti. Quindi quel giorno ho tirato un sorrisone e ho annunciato: l'ho visto in giro senza casco. Motorino sequestrato a lui e parola tolta a me. Ecco, esattamente di queste piccole spiate sto parlando oggi. 800240024, perché giusto ieri sono stato vittima di una piccola spiata simile. Insomma, il lavoro del bibliotecario è molto più complesso e delicato di come me l'aspettassi. Però è chiaro che potevo scoprirlo solo col passare del tempo. Ci sono molte cose che Ciccio e Nonna Papera fanno mentre io me ne sto su internet, cose che io non saprei fare, non saprei come gestire. E anche con le persone che abitano quel luogo, bisogna saperci avere a che fare, conoscere cosa può andare storto, essere pronti ad ogni evenienza. O quasi. Loro sono due persone capaci, e credo che anche Giovanni Denaro lo sia. Prendere il posto di un'altra persona è sempre stato il mio sogno, perché sono curioso e mi immagino come sono le vite degli altri. Solo che finché non mi ci trovo in mezzo, come faccio a sapere di che cosa sono fatte veramente? Comunque sono contento che il mio mese di sostituzione stia per finire. Fino adesso non mi sono mai trovato nella condizione di fare danni, ma tra il catalogare, il trattare dati sensibili, il corrispondere alle richieste più svariate e chissà quale altre cose, insomma, io il bibliotecario non lo potrei fare. Farei un sacco di pasticci. Sì, vabbè, non è fare il chirurgo, però si possono fare sciocchezze anche qui. Io in fondo eseguo solo dei compiti, ed è meglio così. Solo che ieri stavo rimettendo a posto dei libri che erano stati riconsegnati, un compito abbastanza facile, mi aiutava l'ordine alfabetico. Però, mentre cercavo di capire se la J fosse prima o dopo la L, arriva Nonna Papera e mi spinge nel bagno degli uomini. Ora, a me non è mai capitata una cosa del genere, anche se Nonna Papera può avere un suo fascino, rimango comunque sulle mie, perché a me quel genere d'approccio un po' brusco non piace. Sarà un romantico, vabbè, insomma, lei chiude la porta a chiave e mentre sono lì in imbarazzo e cerco di capire come fare a dirle che sono fidanzato, lei mi guarda fisso negli occhi, mi fa cenno di tacere e si mette il dito davanti alla bocca. Shh. Io taccio, lei mi dice sottovoce che devo stare chiuso qui dentro per un po', c'è un controllo sui collaboratori e io non sono Giovanni Denaro. Ecco, lo sapevo. Dunque, sono chiuso in un cesso per scappare da un ispettore che ha capito che sto millantando credito, sto occupando l'identità di un altro, sto truffando lo Stato e i cittadini. Praticamente le mie peggiori paure sono diventate realtà. E inoltre stare chiuso in un cesso di quelli che si vedono i piedi e si sente tutto non è proprio bello, soprattutto se fuori dalla porta c'è qualcuno che vuole entrare. Non è l'ispettore, o almeno non credo. È uno che ha bisogno del bagno e che sta solo aspettando che io finisca. Ma non ha capito che io non finisco un bel niente. Io starò chiuso qui dentro finché Nonna Papera lo vorrà. E quindi eccoci in una bella situazione. Io e questo tizio divisi da una porta sottilissima, io che me la faccio addosso per la paura e lui che se la fa addosso per davvero. È occupato, ho detto la prima volta che ha bussato. Poi però quando ha ribussato dopo un quarto d'ora cosa potevo dire? Tutto bene? Mi ha chiesto. Io vedevo solo le Clark. Mi perdoni, non mi sento molto bene, ma non si preoccupi. Guarda, scusi se tengo il bagno occupato. E lo so che c'è solo questo, ma... E intanto vado avanti, scrivo SMS a caso e spero che non vengano i vigili a prendermi. È una situazione assurda. Mando tutte le maledizioni del caso a Giovanni Denaro e poi a me stesso. E poi maledico pure nonna Papera, che poteva dirmi semplicemente di sedermi a un tavolo nella sala consultazione, fare finta di essere uno qualunque. Mi potevo semplicemente togliere il badge e scappare in un modo più intelligente, magari camminando davanti a loro e uscire dalla porta principale, come Leonardo DiCaprio in Prova a prendermi. Ma no, nonna Papera in fondo ha fatto bene. Le cose semplici sono le migliori. Stai chiuso nel bagno, resisti alla leggera claustrofobia che ti prende e aspetta il tuo momento per uscire. E fregatene di quello con le Clark. Dopo un'ora seduto su un gabinetto a pensare a tutte le ipotesi peggiori, sento il passo pesante di nonna Papera che mi viene a salvare. Esco, lei mi racconta che l'abbiamo scampata bella, che lei si è inventata che Giovanni era andato a casa proprio poco prima, perché sua moglie non era stata bene. E gli ispettori probabilmente hanno fatto finta di crederci, hanno detto che va bene, ma che torneranno. Avevano avuto una segnalazione da qualcuno sul fatto che Giovanni Denaro non fosse più al suo posto di lavoro, però non hanno voluto dire di più. Né io né lei sapevamo cosa fare. Cosa avremmo fatto domani? Cosa avremmo detto domani? Ma soprattutto, chi è stato quello schifoso che ha fatto la spia? Chiaramente uno che vuole male a lui o che vuole male a me. È ormai quasi l'una, decidiamo che io domani vengo lo stesso e faccio finta di essere Giovanni, che un po' gli assomiglio e mica devono chiedermi documenti, no? Sono degli ispettori delle biblioteche, mica carabinieri. A me non pare una buona idea, ma nonna Papera è una che non sente ragioni e dice che faremo così, quindi io obbedisco. Però intanto comincio a guardare tutti con sospetto. Avete presente, no? Quando guardate tutti come se fossero loro i colpevoli. La ragazza del giovane Holden, per esempio. Magari è stata lei a parlare. Lei che si vuole vendicare perché le sono antipatico, non lo so. Oppure no, o no, è la tizia che fa le pulizie, che è invidiosa di noi altri dietro al bancone e ci vuole mettere in difficoltà in ogni modo. Oppure può essere stato Pico De Paperis, che è un pazzo maniaco omicida, che vuole sviare le attenzioni da sé e cerca il modo di mettermi alle corde e poi farmi a pezzettini piccoli e cacciarmi in un sacco nero. In fondo poi non posso sospettare anche di Ciccio, addirittura di Nonna Papera, no? Che ne so io di loro, in fondo? Magari sono arrabbiati con Giovanni e questo è il loro modo di vendicarsi. Il sospetto ti fa vedere tutti con occhi diversi. Sarà banale, ma da ieri è vero. E domani, quando tornerò, non lo so cosa mi aspetterà. Ma io non scappo. Lo devo a Giovanni. Ho fatto una promessa. E sono uno che le promesse le mantiene. Radio 24 800 24 0024 per chiamare in diretta, 349 238 6666 per gli SMS. C'è chi è stato anche mandato a fare la spia, il caso di Luisa che mi scrive: ero in quarta o quinta elementare. Essendo la prima della classe, la maestra una bella mattina mi volle onorare con una gloriosa missione, quindi è la maestra che la manda. Avevo finito di fare i compiti in classe e i miei compagni erano ancora con la testa sul quaderno. Lei mi chiamò alla cattedra e sottovoce mi disse: Luisa, Vai fuori nel corridoio. Ci sono la maestra Piera e la nuova maestra della classe accanto, quella che è appena arrivata. Fai una cosa, vai, mettiti accanto a loro e senti quello che stanno dicendo. Le chiesi un paio di volte quello che dovevo fare perché non capivo proprio cosa volesse e perché. Alla fine obbedì, ma il senso di colpa mi passò solo dopo averlo raccontato a mia madre. 800 24 0024 349 238 6666. Davide mi scrive: lui solo spiate da bambino nella cabina. Luca, mia mamma, quando facevo la spia su mio fratello, mi metteva in castigo. Questo è un classico. Il problema è poi che non riesci più a dire niente né a tua madre né a chi di dovere. E poi oggi mi è arrivato questo messaggio. Davide: una volta ero ragazzo, speravo di fare del bene a un amico, una persona che credevo fosse un'amica, ma ho creato un putiferio. Ho rivelato a lui che nel gruppo c'erano delle male lingue, sperando che avrebbe usato l'informazione per riguardarsi. E invece fece una grandissima scenata. Chissà quanti anni ha adesso e dove si trova. Pronto, Davide? Ciao, buongiorno, come stai? Abbastanza bene, dai, non posso lamentare. Dove sei? In macchina? Oh, attualmente sono a lavoro, quindi... Cosa fai, Davide? Allora, io faccio l'autista. Autista di cosa? Di pullman? Autista di tir. Cioè, sei un camionista? Sono appena partito, quindi... E dove stai andando, Davide? Attualmente sono appena partito da Cesenatico, sì? Da dove abito, sì? E sto andando a Orbetello. Orbetello, che è dall'altra parte, oltre gli Appennini. Parte, sì, praticamente verso Follonica, da quello. Quanto ci metti, Davide? Qui adesso mi trovo sulla E45 praticamente e devo fare Sansepolcro e ci metterò tagliando circa 4 ore. Senti, ma non è festa per te oggi? Per noi frigoristi, diciamo. Frigoristi? Diciamo di no. Scusa, hai detto frigoristi? Sì, noi frigoristi siamo diciamo gli autotrasportatori che trasportano alimenti. Ah, ok, allora avevo capito bene, semplicemente un camion frigo. Senti Davide, ti ho fatto un sacco di domande e sono andato oltre. Mi racconti velocemente la questione per cui hai fatto, diciamo, la spia in buona fede, ovviamente? Ma allora ero studente, ero diciamo diplomando. Sì. E facevo il cameriere per pagarmi, diciamo, i libri e tutto, ho sempre lavorato. E niente, allora erano i primi anni 90, quindi la vita era vissuta al massimo. Qua nei locali a Rimini praticamente si viveva quasi 24 ore su 24. Quindi insomma, Davide, raccontami cosa è successo perché poi ti devo salutare, mi sa. E niente, è successo che io, per far del bene a un amico che era un collega, e quindi eravamo tutti colleghi, ho fatto una spiata, ho detto a lui che praticamente il nostro gruppo di lavoro si era coalizzato contro di lui per cercarlo di mandarlo via. Che era vero. E lui, piuttosto che difendersi o comunque cambiare il suo atteggiamento, non ha fatto altro una sera che sbottare in mezzo alla sala piena di clienti. Senti, Davide, lo hai più fatto una roba del genere o da quel momento hai smesso? No, non l'ho più fatta, anzi, cioè, da quel momento non ho più fatto la spia, oltretutto. In nessun caso sono diventato praticamente come i siciliani, ma anche per un motivo. Quale? Perché ho vissuto... Qua i siciliani staranno godendo, ovviamente, per il luogo comune. Ho vissuto praticamente 6 mesi, fino alla fine del contratto, con la paura di essere scoperto, perché tutti si chiedevano... Chi fosse stato, come mai? Chiaramente. Davide, senti, io ti devo salutare. Solo una cosa, dopo Orbetello cosa fai? Torni diretto a Cesenatico? Torno diretto al Cesenatico, sì. Senza dormire, senza niente? No, dormiamo. Ah, ok. Noi ormai viaggiamo con le ore. Ok. Da un anno a questa parte... È cambiato tutto. Davide, grazie mille, buona giornata. Adesso la borsa grazie. E io sono qui. Ciao, grazie. Io sono qui. Sono le 16:35. Oggi chiediamo un pochettino prima, perché è una giornata speciale quella di oggi, visto che ricorre il 150, non so se ve ne siete accorti, ma ricorre il 150esimo anniversario della Repubblica. Sta per cominciare il discorso del presidente dell'Unità d'Italia. Dell'Unità d'Italia, del 150esimo dell'Unità d'Italia. Ovviamente. Adesso lasciamo la parola a Simone Spezia, che ne sa più di me, per il discorso del presidente della Repubblica Napolitano. Però vorrei chiudere la questione sulla spia, perché mi scrivono: Michele, ero alle medie, ho detto alla mamma del mio migliore amico che lui aveva una pagina di una rivista erotica nascosta nel calorifero. E poi invece vorrei finire con un pezzo tratto da uno dei maestri delle carogne, dei maestri delle spie. Si chiama Iago, ovviamente, retratto da Otello. Che possiate sorprenderli sul fatto, signore, cosa che non credo sia possibile, però dico, se può una semplice indicazione bastare a darvi la certezza, ebbene, questo voi potete averlo. Di fatto ancora non si è visto nulla, ella potrebbe essere onesta, ditemi solo questo però. Non vi occorse talvolta di vedere in mano a vostra moglie un fazzoletto con sopra ricamate delle fragole? Io non lo so, ma con quel fazzoletto, che era di vostra moglie, ne sono certo, oggi mi è parso di vedere Cassio, che si asciugava i peli della barba. Quello o altro accertato che appartenesse a lei, messo insieme con tutti gli altri indizi, direi, le parla contro. Sono le 16:36, io ringrazio Tiziano Bonini, Viola Bottoni e Paolino Corleoni. Adesso va Chiedo Asilo e poi Simone Spezie vi racconterà quello che sta accadendo e vi racconterà soprattutto in diretta il discorso del Presidente della Repubblica per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Questa è Radio 24, per scrivermi io sono qui, @radio24.it, oppure il profilo Facebook del programma è sempre quello, è Matteo Caccia, io sono qui.